L'altro ieri il sindaco di Milano non era sui giornali soltanto con la proposta di far costruire in città non uno, non due, ma ben tre grattacieli. Uno alla Fiera, uno alle Varesine, che lui chiama chissà perché città della moda, e un altro con Piantastella al posto di San Vittore, che è un'eccellente idea per attirare altro traffico in quei quartieri già ingolfati e moltiplicare il numero degli ascensori in cui i cittadini possano farsi intrappolare al prossimo blackout. C'era anche, con una lettera pubblicata nel dorso cittadino del Corriere, in cui in risposta a un intervento critico ricordava i fatti concreti realizzati dalla sua giunta. Che volete? Lui è fatto così. Se lo si accusa, come aveva fatto su quelle pagine Antonio Panzieri un qualche giorno prima, di non essere in grado di proporre dei sogni, di non sapere indicare cioè una prospettiva coraggiosa di sviluppo a una città che sembra avere smarrito la propria ragion d'essere storica, sente il bisogno di precisare il numero dei chilometri di rotaia che la sua amministrazione ha fatto posare. Per lui contano i fatti concreti, perché per i sogni, aggiunge con malcelato compiacimento, non è attrezzato. E anche se non resiste alla tentazione di vantarsi di progetti su cui il consenso è tutt'altro che unanime, tipo la ristrutturazione della Scala, o di inserire tra i fatti concreti degli avvenimenti assolutamente di là dei da venire, dei futuribili puri, come il completamento del passante ferroviario, le nuove linee della metropolitana e la grandiosa metamorfosi urbanistica, tra virgolette, delle aree Garibaldi Repubblica della vecchia fiera, non si può fare a meno di provare per il povero Narciso di Palazzo Marino una qualche tiepida ammirazione. È vero che basta guardarsi in giro per rendersi conto di quanto sia ostile ai suoi abitanti una città incapace di superare un giorno di pioggia o uno sciopero dei tranvievi senza andare in blocco, una città da cui si scappa perché non ci si può permettere di pagare l'affitto di un appartamento, in cui il luccichio delle vetrine è sempre più falso e standardizzato, la cultura è diventata un optional di cui si può benissimo fare a meno e il numero di chi tira avanti ostensibilmente coi denti è sempre più alto. Ma lui è tutto contento per aver realizzato 40 chilometri di rotaie. Pensate che Agnasi, il suo predecessore che ne aveva realizzate di più, si è fermato a 24. Che il vero sogno, un vero sogno a occhi aperti, sia quello di una città che aggiunge una stazione di metropolitana di qua, un depuratore di là, un parcheggio ogni tanto e trova da sé la sua via, uscendo spontaneamente dalla crisi in cui l'ha cacciata ad esaurirsi della sua vocazione industriale, a un pensatore di quel calibro non passa neanche per l'anticamera del cervello. Ah sì, c'è un'altra cosa. L'altro ieri, naturalmente, era il 12 dicembre. Una data triste per noi milanesi, non soltanto per il ricordo di tutti quei morti, ma perché, almeno per chi ha vissuto quegli eventi, rievoca ormai, anno dopo anno, l'affievolirsi della capacità di protesta civile e di lotta democratica della città. È inevitabile, forse. 34 anni sono tanti per tutti e non sono più i tempi della volontà di resistere al progetto eversivo che le bombe di Piazza Fontana avevano cercato di innescare. Forse in troppi di noi si annida il sospetto che anche se allora siamo riusciti, come no, a smontare le accuse agli anarchici e a far passare la verità storica di una strage inequivocabilmente di Stato, il paese in cui viviamo oggi non sia troppo dissimile da quello che avevano progettato gli eversori allora. Come a dire che per minare la democrazia non servono sempre le bombe, ma basta talvolta il controllo dell'informazione. È ovvio che le manifestazioni di venerdì siano state stanche e ripetitive ed è vano sperare che serva a qualcosa il tardivo processo che si va celebrando proprio in questi giorni contro un gruppo di smandrappatissimi fascisti o presunti tali. Di processi per Piazza Fontana ne sono stati fatti tanti e non tutti, sappiamo, hanno giovato a stabilire la verità. Tutto questo, comunque, non sembra giustificare l'atteggiamento di un primo cittadino che si è limitato in quella data a una rapida comparsata in Piazza Fontana per i rituali squilli di tromba, che la mattina è intervenuto sui giornali ma soltanto per esaltare se stesso, e la sera, incredibile ma vero, è comparso in televisione per scambiare battute e futilità con un conduttore di scherzi a parte, se non era un sosia, perché giuro che l'ho soltanto intravisto e ho cambiato subito canale. È un atteggiamento, nonostante tutto, che continua a sembrarmi disdicevole. Il sogno di un sindaco che si preoccupi, se non del futuro, che è troppo, almeno un poco del nostro passato, forse potremmo ancora permettercelo. Che sono sfoggiati.